Come apertura oggi ricordiamo il 12 maggio del 77, quando Giorgiana Masi è stata uccisa. Volevamo iniziare innanzitutto leggendo quella che è stata la poesia che nel 77, nel 14 maggio del 77, scrissero le compagne femministe e misero su un manifesto che attaccarono per tutta la città. Se la rivoluzione d'ottobre fosse stata di maggio, se tu vivessi ancora, se io non fossi impotente di fronte al tuo assassinio, se la mia penna fosse un'arma vincente, se la mia paura esplodesse nelle piazze, coraggio nato dalla rabbia strozzata in gola, se l'averti conosciuta diventasse la nostra forza, se i fiori che abbiamo regalato alla tua coraggiosa vita nella nostra morte diventassero ghirlande della notte di tutte noi, donne, se. Allora non sarebbero parole a cercare di affermare la vita, ma la vita stessa, senza aggiungere altro. Quindi il 12 maggio del 1977, nell'anniversario, storia referendaria sul divorzio, i radicali decisero di tenere un sit-in a Piazza Navona, nonostante ci fosse stato l'assoluto divieto da parte di Cossiga di manifestare per 3 mesi in qualsiasi piazza di Roma, questo dopo la morte il 21 aprile dell'agente Passamonti nel corso di alcuni scontri di piazza. Quindi il 12 maggio i radicali decisero di sfidare questo divieto e anche i movimenti e i gruppi della Nuova Sinistra aderiscono all'iniziativa per protestare contro il restringimento degli spazi e soprattutto di reattività politica. Che cosa succede? Che per far rispettare a qualsiasi costo questo divieto, il ministro dell'Interno, che all'epoca era Francesco Cossiga, schiera migliaia di poliziotti e di carabinieri in assetto di guerra. Questi erano affiancati, e questo non è un particolare da tralasciare, erano affiancati da agenti in borghese delle squadre speciali, in alcuni casi anche travestiti da compagni e travestiti da autonomi. Fin dal primo pomeriggio la tensione nel corteo, insomma nel presidio, è veramente molto alta. A quanti difendono il diritto di manifestare con brevi cortei e fortunose barricate, le forze di polizia rispondono sparando candelotti, lacrimogeni e colpi di arma da fuoco. Sono picchiati anche numerosi fotografi, giornalisti, passanti e il deputato Mimmo Pinto. Con il passare delle ore la resistenza della piazza si fa sempre più decisa e iniziano ad essere lanciate delle Molotov. E mentre nelle strade ci sono ancora scontri, i parlamentari radicali protestano alla Camera contro le aggressioni e le violenze della polizia, fra gli insulti praticamente di quasi tutte le forze politiche, tra le quali anche il Partito Comunista Italiano. Quando mancano 20 minu pochi minuti alle 20, durante una carica, due ragazze sono raggiunte da proiettili sparati da Ponte Garibaldi, dove praticamente erano attestati poliziotti e carabinieri. Elena Ascione rimane ferita ad una gamba, però insomma se la caverà. Invece Giorgiana Masi, 19 anni, studentessa del liceo Pasteur, viene centrata alla schiena, muore durante il trasporto in ospedale. E questa è la storia di Giorgiana Masi. Le chiare responsabilità emerse a carico della polizia e del questore del ministro dell'Interno porteranno il governo a intessere una fitta trama di omertà e di menzogne. Cossiga, ovviamente, dopo aver elogiato il 13 maggio in Parlamento il grande senso di prudenza e moderazione delle forze dell'ordine, modificherà più volte la propria versione dei fatti, ma costretto dall'evidenza dovrà ammettere la presenza delle squadre speciali tra gli uomini in borghese armati. Infatti furono riconosciuti il commissario Gianni Carnevale e l'agente della squadra mobile Giovanni Santone. Continuerà però, nonostante tutto, a negare che la polizia abbia sparato, pur se smentito da vari testimoni e da inequivocabili immagini di foto e filmati. L'inchiesta per l'omicidio di Giorgiana Masi si concluse nel 1881 con una sentenza di archiviazione del giudice istruttore Claudio D'Angelo per essere rimasti ignoti i responsabili del reato. Ricordiamo che il giudice istruttore Claudio D'Angelo è anche quello che chiuse che diede l'archiviazione per il processo dell'uccisione di Valerio Verbano. In un estratto della sentenza il giudice scrive: «È netta sensazione dello scrivente che mistificatori, provocatori e sciacalli estranei sia alle forze dell'ordine sia alle consolidate tradizioni del Partito Radicale, che della non violenza ha sempre fatto il proprio nobile emblema, dopo aver provocato i tutori dell'ordine, ferendo il sottufficiale Francesco Ruggero, attesero il momento in cui gli stessi decisero di sbaraccare le costituite barricate e disperdere i dimostranti per affondare i vili e insensati colpi mortali, sparando indiscriminatamente contro dimostranti e tutori dell'ordine. E questo è il clima in cui una ragazza, una compagna, una femminista di 19 anni ha trovato la morte. E noi vi stiamo raccontando questo perché appunto sabato è l'anniversario dell'uccisione di Giorgiana Masi ed è stato indetto un presidio alle 15 da Ponte Garibaldi, che è il ponte dove si trova la lapide di Giorgiana Masi. Vi leggo un breve stralcio della chiamata all'appuntamento. In questi ultimi tempi assistiamo a una crescente repressione e violenza dello Stato contro movimenti e individui diversi per pratiche e ispirazione, ma tutti mossi da una critica alla società esistente. Il numero delle persone arrestate, rinchiuse e trattate perché socialmente non disciplinate sale di giorno in giorno, a dimostrazione che alla brutalità delle forze dell'ordine è sempre seguita la solerte repressione della magistratura. Dalle 10 condanne per devastazione e saccheggio per il G8 di Genova 2002, con le quali sono stati dati fino a 12 anni di carcere a persona, agli ultimi arresti del 15 ottobre del 2011, condannati a pene esemplari per il semplice reato di resistenza aggravata. Anche alle lotte contro la nocività e al movimento NoTav hanno presentato il conto. Centinaia di persone ferite, anche in maniera grave, truppe d'occupazione e espropri, per non parlare degli ultimi arresti e denunce. Nonostante questo, noi vogliamo continuare a metterci in gioco in prima persona e quindi l'appuntamento, ricordiamo a tutte e a tutti, è per questo sabato 12 maggio alle ore 15 a Ponte Garibaldi, per ricordare tutte e tutti insieme Giorgiana Masi.